Santo Edmo. Ma porca troia. Sarà qui, no? Facciamo così, no, qua. Brecco. Sì, ma vedi, stato brecco. Praticamente tu cos'hai toccato? Cos'è che cambia? Non ti preoccupare, non è successo assolutamente niente. No, ma a me dispiace perché a un certo momento, siccome questo canale qua è più frequentato rispetto ad altri, poi sono passato anche sul 20 per fare delle prove, poi sono notato, ma cazzo non c'era nessuno, e adesso mi sono trovato che ci sono questi due, ho detto ma a caso c'è Claudio e Luca, non lo so, non le suggerisco niente perché in realtà tanto in radio le prove si fanno, però non è che farlo forza proprio in questo canale che so che ho frequentato ormai da quasi tutti. No, ma anche io da quelli che si sono assistito che siamo quel attimo che ha lasciato il bianco, ho chiamato Luca e gli ho risposto, non è successo niente di tuo figlio, non sono tutti quelli i problemi, ce ne sono più grossi i problemi. Non credo, certo ce ne sono più grossi, più bravi anche, ma questi almeno sono risolvibili. Ho visto che facevo le prove con lei o con qualcosa del genere. E nel momento in cui tu hai mollato ho chiamato Luca e quindi gli ho risposto, ma non è che hai disturbato nessuno, per carità, ci mancherebbe altro. Ah ecco, quindi al momento cioè non c'eravate voi? No, però non nessuno, Vittorio, non è successo niente. Ero in quel rizzo, ho risposto a Luca nell'attimo che tu hai mollato, capito? Quindi no, non ti preoccupare. Va meglio così, ok, da. Riprendete pure, io intanto lo tengo sempre acceso qua anche per ascolto, però sto sempre facendo dei lavoretti per cui di carattere sto costruendo dei cavi e quindi già rimango sempre in attenzione. Non c'è problema, anch'io sono in Colix, mi ha lontanato l'altro la radio, se avessi chiamato qualcuno rispondo, ma mi ha lontanato anch'io dalla radio, vado a prendermi un mangiare un po' di frutta, ci sentiamo dopo, Vito, ciao. Buon proseguimento. Ma salve al mio hermano. Ciao, già mi montano un attimo, ma vabbè, adesso vi ci sentiamo. Capa, capa, buona mangiata. Avanti, Vittorio, buonasera. Buonasera, Gianni. Niente, lo accendo ogni tanto, sì, non è che sono un grande modulatore per carità, però capita che io mi accorgo, se cioè, poco fa avevo un minimo dubbio un mio inserimento che magari potrebbe essere disturbativo, se si può dire, e ho detto ma caspita, stavo facendo le prove con una camera ecco, ho detto vediamo un po', poi invece improvvisamente ho sentito Luca che chiamava, ho detto cazzo no, come non c'era nessuno, ero più di 10 minuti in ascolto, ho detto adesso faccio il problema, ma non è che ero sul 10 per disturbare, sono capito proprio, e poi mi sono sposato anche sul 20 per fare una quadratura e ho notato molto, ma cazzo ma qui cosa sta succedendo, e mi sono un po' diciamo infastidito. E magari adesso cosa è successo? Che loro a volte fanno un attimo di bianco, poi riprendono, magari tu ti sei inserito proprio quell'attimo lì e è successo, ma è malinteso. Da parte mia non c'è nessun problema, ma non penso da parte di nessuno quando entri, non c'è nessun problema, sebbene accetto da parte mia, poi non so se ci sia qualcuno ma non penso. No, ma io non è che abbia per carità fatto scuse a nessuno perché non era il caso, ma non è questo il problema. Il problema è che può succedere che uno sta facendo delle prove, mi sono trovato in questo canale, poi ma non è che per la posta sto usando un apparato che mi si è spento tutto quanto, non c'ho né il frequenzimetro, né lo smitter, è tutto spento. E da solo che canale sono, praticamente lo vedo per appena e sono capitato. Infatti se uno mi dice vai su questa frequenza e purtroppo è tutto spento, c'ho questo apparato lì che ormai è da andare, però ancora lo sto usando perché si sente un po' bene, non so se tu confermerai. Oh, si sente bene, sì, sì, una bella modulazione. Che apparato è questo? È un apparato vecchio, c'è più di 40 anni, poverino, è tutto sgangherato, però funziona ancora e appunto lo sto usando per questo motivo qua, se no l'avrei schiacciato, buttato via, però sono in attesa di recuperarne uno più decente, diciamo, in maniera tale che possa avere anche una descrizione su questo. E che marca è? Beh, adesso la verità non ha marca, è un giapponese comunque. Cavolo, vabbè, come si sente bene. Era molto buono anche l'Inuit, mi ricordo io. I 23 canali, i 40 canali, l'Inuit erano molto buoni, si sentivano bene. No, questo è un apparato che devo dirti che si rassomiglia un po' al, al Tokai, non so se te lo ricordi. Ha qualche cosa in comune col Tokai. Come non lo ricordo? Tokai 5024, con l'azzurro, con la gomma attorno. È più o meno quello lì, però è uno dei tra gli ultimi che sono usciti, il 71, 72. Non ho capito. Ma tu mi hai parlato di frequenzimetro, vuol dire che è un apparato completo anche quello lì, non è un apparatino di cavo, ecco. No, no, sì, il frequenzimetro è a parte, l'avevo aggiunto io, però si è tutto spento ed è tutto incasinato. Però la modulazione, diciamo, la radio è buonina, ecco. Sì, è chiara, è abbastanza buona. Purtroppo finiamo lui, finiscono anche loro, meglio loro di noi, no? È chiaro, purtroppo è un catara bruciale, però ancora funziona. Quando si spegne vuol dire ce lo manderò al macero. Devi fare l'iniezione letale. No, beh, se lo voglio distruggere non c'è bisogno di mandarlo al macero, basta dargli un colpetto e così almeno me ne libero. Ma tu ne hai distrutti gli apparati, no? Già ne ho qualcuno, non tantissimi, ma già ne ho qualcuno. E quindi non lo spesi senza, ecco quello che ti volevo dire. L'antenna è cambiata la vittoria. Negativo, l'antenna è sempre quella, tutta a mezzo. Avevo fatto dei lavori con. No, Antonello non c'era mai venuto, c'erano tutti diversi, comunque amici, l'abbiamo smontata, gli abbiamo fatto tutti i colori, ma che niente da fare, i radiali sono appoggiate così, non ha, c'è soltanto il verticale, basta. E la montava uno vecchia, la prima montava uno l'avevo comprato, c'è più di 30 anni. Fatti un conto, anche il cavo c'è così tanto. Il cavo no, il cavo l'avevo sentito, io ne avevo preso due mattate di cavo da 15 metri l'una, il cavo l'avevo sostituito con una cesa con, ma adesso mi dimentico, con Natalino, era andato Natalino, l'avevamo portata giù e poi lui è andato via, io l'avevo rimontata, mi ha aiutato mio figlio, l'avevo messa su, ma l'avevo messa così, diciamo, giusto per mettercela, ma era sempre uguale, non ha migliorato nulla, perché il telescopio, tutto quanto ossidato, è tutto un blocco, non sono riuscito a rimontarla per pulirla, e quindi questo problema è per questo motivo qua. Vabbè, se non metti la carta male, il nostro vulcanizzante non gli aggiunge un casino, già il casino c'è quando lo metti, perché molto più detto che l'altro è molto ossidato anche nel pendolo. Sì, no, come coso, come radiatore tutto a posto, cioè, il problema è dell'ossidazione che ha negli snodi della telescopica, che sono tutti quanti ossidati, su in alto, poi in cima, il cimino l'avevo tolto, avevo aggiunto un pezzo che era ancora più lungo, quindi riesco ad accordarla perché c'ho un accordatore così, insieme 1000 della TZG, che ancora funziona, insomma, riesco ad accordarla, però c'ho 1,4, 1,5 di stazionario ed è un disastro. Io ho un TM1000. Il TM1000 c'hai? Vabbè, buono, accorda bene, per carità, questo è proprio uno dei primi che sono usciti del TM1000, c'è più di 30 anni questo qua, forse da 78 credo che sia questo qua, e ancora funziona, però il problema è dell'antenna, l'antenna è tutto, quando non c'è antenna tu puoi avere tutti gli apparati che vuoi. E poi c'è l'HP1000 che è quello che sto usando adesso, però non lo uso come accordatore, lo uso come rosetto, perché io ho di stazionare ho 1,1 tutti i canali. Immaginiamoci, no qua né o meno neanche a fare posto in questi canali bassi, poi mano a mano che vado su è un disastro, va su in rosso, non posso neanche accordare, capito? Oltre la 20, c'è se non posso andare, c'è lo stazionario al massimo, e purtroppo l'antenna è quella che è, e mi devo contentare di com'è. Comunque il giorno non funziona più, sarà, io ce l'ho già l'antenna da mettere, devo soltanto montarla e basta. Mandrolia, non sono più ragazzo, Gianni, capisci? Salire sul tetto, voi e tegole, eccetera, non vorrei fare danno, quindi purtroppo non sono un gatto, perché il gatto è delicato, sale, non sono pesantissimo, sono un ometto per 166 kg, per cui non sono grande, un grande pesantuccio, però ho paura di essere sul tetto, se cade un casotto, sono purtroppo, non sono più ragazzetto. Lo so, basta fare un fischio, veniamo da te, no, non c'è problema. Se no, ogni tanto tu c'è la casa in campagna, ti metti un palo a terra e lo fai salire su. Sì, potrebbe andare bene anche una cosa del genere, però una cosa è sul tetto di casa, che già la casa è alta 12 metri, dal punto della parte più bassa. Se metto un palo in terra, tipo un passaggio livello, e poi l'antenna dove va a finire? Cioè, rimane sempre più bassa di come nel tetto, altrimenti non ce la fa a superare quell'altezza. Ma c'è, cioè, dovevi approfittare quando c'era caldo, però adesso cazzo piove, si bagna il tetto, poi con le tevole si spacca se si bagna. E aspettare qualche giornata di bel tempo, ci si mette d'accordo, e una mano tagliamo tutti. No, proprio per quello sì, ma adesso mi sono, diciamo, trascurato un pochino, anche perché in questo periodo qua sono stato incasinatissimo, a dirti la verità, che ho sposato mia figlia e quindi ero 3-4 mesi proprio al massimo dell'impegno. No, però senz'altro non durerà, perché qualche volta mi piace accenderlo, perché non uscire bene anche con un certo segnale? Vedi che è precario il segnale, è basso, non è come quando l'antenna è nuova che si spara come un fulmine. Purtroppo ti devi accontentare di quello che è, però già prima o poi già lo farò quel falsetto. Tu sei basso, ma se non vuoi 10, non è che sei basso, non vuoi tu. Tu sei 9-10, va bene, non è che... Diciamo che non è il massimo, però già si fa sentire, è una città. Guarda, quando l'avevo montata la prima volta, l'avevo smontata quando abitavo in via Milano, che l'avevo messa qui, era perfetta perché l'avevo tutta smontata, pulita, messa, e qui c'è più di 30 anni, ferma. E quindi l'ho smontata l'anno scorso con Nastalino, abbiamo fatto, però non smonta, non è stata, non si è potuta smontare definitivamente e ripulirla con gli elementi, eccetera, proprio è l'ossido che non gli concede di lavorare. Quando l'avevo montata, qui il stazionario era zero, zero stazionario, proprio non saliva niente il ROS, però col tempo è ceduto, chiaramente prima avevo un guadagno di 11 e 10, ma adesso ne avrò 4, e quindi è pochissimo. Prima sparavo con un fulmine, nella mia posizione vedo tutta la città, capito? E quindi dovrebbe sparare, invece non spara un cavolo perché c'è questa incombenza. Attenzione binario 10, ecco. Attenzione 10. Cristian, ci si. Andiamo nel paragonico, ma la vincola di sei. Non mi capisco nel tipio. Io ci sono. È ben messa quella roba là, l'hai. Attacca. C'è spaccato il letto. Chiami a piede. Però tasso sarò in campagna. E tu la ci scala. Il letto devo puoi sempre mettere. Va bene, Maravica, stai a rara. Capita la corrente, ci dovranno rimanere. C'è qualcuno che lo sa, mi vorrei. C'è 40 passa, che qua c'è corrente. Mi sento male durante la messa. E l'ho caricato io con l'ambulanza. Siamo entrati dentro la chiesa con la barella e l'abbiamo caricato mentre stava dicendo la messa. Giusto così, e poi il conto, quello che faceva altrove, che fa prepara tutta la chiesa, tutto quanto. Quello è, si chiama Giuseppe, sono Giuseppe, no, però non so il cognome. Manichis, si chiama Giuseppe De Manichis quello. E De Manichis, un nuovo anziano, anziano, ma quasi una sessantina d'anni, hai capito? Beh, c'è anche il signor Franco Sassu che fa, diciamo, un po' le cose della chiesa, agitare candele, tutte queste cose qua. Prima c'era il signor Celestino, mio padre era lo stesso della zona cattolica, lì a Sacro Cuore ha fatto catechista, ha fatto tutto mio padre. Io ho fatto dal chierichetto sino all'esploratore, chierichetto, poi ho fatto il lupetto, poi ho fatto lo scout e poi l'esploratore. Allora eri la vergogna perché fra azione cattolica e cosero e Boy Scout c'era sempre stato un ansio, per quanto io ho partecipato sempre per i Boy Scout. No, non c'era nessun ansio perché gli scout erano lì, proprio la sede degli scout era nella chiesa, addirittura c'era un prete che era Don Murito, che adesso c'è la chiesa, la sta facendo di fronte a casa e c'era il buon pastore, quello lì Don Murito era il nostro padre, diciamo, protettivo, veniva sempre quando facevamo le cose, io qua ho fatto tante di quelle cose che tu non hai idea facendo lo scout, è stata veramente una bella esperienza. Stai dicendo a me, io ho fatto stasera il quarto che era San Giuseppe, stasera il quinto che era San Vincenzo, ma dopo di più chi è quello che c'ha il coso nella comunità? No, quello che c'è un pastore, la chiesa che c'è di fronte all'altro parco, quella lì è la chiesa di Don Murito, adesso la sta facendo una enorme di fronte a casa, l'ho visto a fianco agli evangelisti, sta facendo una chiesa enorme, enorme, se tu vieni a casa mia te la facciamo davanti a casa, sta facendo un caseggiato un bel grande. Ne stanno nascendo parecchie, quella con la Santa Maria, poi quella lì che stai dicendo tu, e ce n'è un'altra che sta nascendo di fronte alla casa di Falchetto. Ecco, fronte alla casa di Falchetto già l'ho vista. È già nata, quella lì è già costruita. La struttura è già nata, però ancora non è agibile. Appagata. Io Sassari primo, quando era stato il cuore, Sassari primo, adesso Sassari primo mi pare che sia a San Porno e cose, a Sant'Agostino mi pare che sia Sassari primo. Non lo so, ma ricordo, ho fatto le sole volte, se non sbaglio era giallo, o no? Sì, il fazzoletto era giallo, sì. Io ero caposquadrilla degli antilopi, me lo ricordo ancora. Sì, poi ho dei lupi, e poi avevo fatto fino al nuovo impianto, la stessa riguardo. Ah, fa belle cose, come si facevano i campi, cucinare, fare. Poi era successa una cosa, che la mamma di questo bambino l'aveva fatta con uno degli scatti. Quello era successo anche a San Vincenzo, e Don Unali aveva sbattuto fuori le coccinelle non c'erano più, però diciamo comunque gli scout femmina non c'erano più per un periodo, capito? Però è successa anche un'altra cosa, lì c'era anche la Rubur, te la ricordi la Rubur come squadra di pallacanestro? Quello lì risaleva al periodo del fascismo. Rubur e Kappa, la Kappa te la ricordi? Anche se mi sembra di sì, anche per quanto io attenzione io a San Vincenzo giocavo nell'Audax. Allora io lì nella squadra del basket non ci ho mai giocato, una volta è salito, siccome avevamo le sale di biliardi, per giocare a biliardino, flipper, tutto quanto c'era, era un bel grande caseggiato. E ho trovato due che stavano pomicciando in modo superiore alla pomicciata. Dove l'avevano fatto? Chiuso tutto quanto, chiuso la sala biliardi, insomma sospeso con le persone, un casino era successo. E da lì un po' le cose sono andate in degrado, poi c'era questa ragazza che si era innamorata di me, e io avevo già la ragazza. E c'era questo scout a cui questa ragazza piaceva, però non sono cagata, capito? E mi aveva preso un preludio, ma io non c'entravo un cacchio, poi non ci sono chiamato per questo motivo, perché la mia ragazza l'ha passato tutto e non voleva più che ci andassi. No, ragazzi, ma quindi fino a che età l'hai fatti? Penso, guarda, 19 anni avevo. Ma tu dimmi una cosa, ma ti sto arrivando di segnale, perché non riesco a capire se sta funzionando bene questo apparato. Ora, ora, 1, 2, 3, 1, 2, 3, guardami ecco, controlli il radio, un po' cupa, però dovrebbe uscire bene. Sì, già stai arrivando bene, dai. Cosa ti stavo dicendo? Che lì non è che ti bloccavi facendo lo scout, c'era un bel giro di ragazze, di... Santo di Roma, poi c'erano ragazze che facevano pallacanestro, c'era un bel giro, giocavamo a ping pong, a tennis, tutto, c'era tutto qua, non accavano, ci facevano anche falegname, ci facevano costruire gli sgabelli, l'armadio, un armadio con l'aiuto naturalmente di chi sapeva fare, non è che sapeva fare tutto, però imparavi molte cose. Quello in quasi tutti i così scout lo facevano, era bello era quello che iniziavi diciamo ad avere un contatto con la realtà e soprattutto spirito di squadra. No, bello, bella esperienza anche da parte mia. I nodi, i passaggi in corda, le ruscelli, cazzo, quanto qua, quanto mi sono divertito quel periodo. Poi c'era mia madre che era un po' apprensiva, aveva paura a mandarmi a fare i campi, qua. Sono andato tutta la squadra, sono andati per convincerla a farmi andare allo scudetto, non mi voleva mandare in nessuna maniera, poi alla fine ce l'avevano fatto, sono venuti tutti gli scherzi a casa a convincerla. Tu immaginati che prima non c'era neanche il telefonino, adesso quando uno partiva lo sentivi dopo 3-4 giorni. Io mi ricordo che il campo bellino che si faceva qua vicino era Macomer, Sant'Antonio Macomer. E era che ho scuvuto, è stato bello. E siamo stati in vari posti, a Rizzo, siamo stati tanti posti, adesso che mi ricordo io, poi facevamo i passaggi corda, discese corda doppia, tutte queste cose qua, le mai fatte. Però c'era anche la foresta Burgos, c'era il campo, sì, tutte cose che si facevano nei buscapi, non ti dicevano poi come le dovevi fare basta, e sì che diventavi un momento. Non siete mai andati di fronte a Sarcagia? Ma ci sono le rovine di quel convento. E c'è praticamente quegli strapiombi per fare le discese in corda doppia, facevamo le discese in corda doppia lì. E tutto quanto a piedi, ci facevamo un bel di strada a piedi, tutto quanto a piedi, tutto in fila, vai in cammino. E poi le rientravi, non erano come le scarpe di adesso, ne rientravi con i piedi corti. E avevi gli scarponi, i pantaloni alla zuava, con il bottoncino, non lo ricordo ancora, la camicia col foulard, la camicia celeste col foulard, con il ferma foulard in coso, in sugolo, poi i pantaloni fustano, e quella la zuava, cioè, già lo zaino sulle spalle e via. Ero dimenticato quelli in fustagna, perché io, vabbè, subito dopo erano usciti quelli in velluto, però non c'era ancora la cooperativa del Grifone, tra l'altro. Che ha pagato. E comunque erano dei tempi, Giuseppe. Dimmi già. Tu lo scout l'hai fatto. Tu ne hai detto, mai fatto, oi, non perdere, che cazzo che ero un dannaggio, cazzo, quando ero piccolino, ero un dannaggio, cazzo, che a scuola, a Parreggia, cazzo, io ero lì e rompevo le palle a tutti quanti, cazzo, delle maestre, cazzo, e chiamavano i miei genitori, dice, per strategia, suo figlio, se lo porti via, perché cazzo di tu, ogni lezione che faceva la maestra, rompevo le scatole a tutti, cazzo, con le reti, e lanciavo tappi di penna, e penna a reti, addosso ai compagni, cazzo, guarda, le susse che ho preso di dietro, la mia palle, oi oi. E quelli so cosa hanno fatto tutti, con la penna di che facevi, bagnavi con la saliva, un pezzo di carta, avevi la voglia e poi tu facevi la cannuccia e pigliavi la voce al naso. E la cerbottà, ci faceva cerbottà. E lì poi c'era che si staccava i peli da davanti, lo soffiava e tutti quanti si spostavano per non prenderli. Per carità, guarda, bei tempi erano, bei tempi, andavo proprio a ricordare indietro, oi. Magari potessero venire adesso già. Avevamo una di quelle supplenti, non so se è presente la supplente che andava a Pino, così, una buona fetta così era. Se veniva con queste minigonne ultra, si metteva con le gambe accavallate e nella cattedra c'era con lo spazio che ti fa vedere le gambe. E c'era Ruiu, che era un figlio di buona madre, di quelli ripetenti. E gli diceva, professore, lo sai che c'ha belle gambe? Ui, smetti! E poi sorrideva, no, perché gli faceva piacere. Provocanti loro, cazzo, guarda, una cosa allucinante. Io ci avevo guardato questa professoressa di italiano, la professoressa Pua, cazzo, ma guarda, un troppo di canna già, non ti dico, cazzo, veniva con queste, cazzo, però, due tite, cazzo, che sembra, presente quella, Carmen Russo, questa ce l'aveva il numero, cazzo, porca puttana, cazzo, ma, magrurina. Scusate se è porca. Migone, cazzo, proprio a chilante, cazzo, come si inchinava, per la scusa di aggiustarsi le carte, cazzo, si vedeva la stampa del culo, cazzo, guarda, una cosa allucinante. E noi, cazzo, tutti accavallati al culo sopra l'altro, cazzo, per vedere questa cosa. Fate abbassare la libidine, fatela abbassare, c'è troppo alto. E vabbè, tutti quanti l'hanno fatto quando eravamo ragazzi, c'erano gli spogliatoi delle donne, tra via Pascoli e via, che via è quella, via Nurra, c'era nel muro, c'era una specie di rientranza, facevamo praticamente con la mano da cavalletto e ci arrampicavamo questa cosa dove c'erano tre ragazze che si spogliava. E scappa, e beh, certo, ecco che non abbiamo fatto, voglia, a carità, e se no nei bagni delle ragazze, certo, avevamo fatto una specie di coso, di buco, dal bagno delle uomini al bagno che concedevano, e abbiamo fatto questo buco, certo, con portavamo un cacciavite oppure un martello e facevamo questi buchi giusto per cazzo per vedere nei buchi quando la donna andava in bagno a fare i suoi bisù, cazzo, guarda, ma cosa allucinante che facevamo, era proprio micidiale. Cazzo, per ammazzare ti voglio vedere sui di metà classe. Facendo il buco col martello ti avrei voluto avere. E guarda, cazzo, di quei mattini piccolini, cazzo, di quelli che portavo via la casa, cazzo. Grande fantasia. Diceva, ho pigliato un sacco di martelli, cazzo, sono tutti sbagli qua, e ma ne tornavo io in questi martelli. Grande. Cappa Roger, Cappa Roger, già ne facevate, oi. E sono ricordi anche, sono ricordi belli che ti vengono in mente quando eri ragazzino, capito, bambino, all'età di 6-7 anni, capito? No, sono quelle cose sicuramente, a pensarci col senno di poi sicuramente è bello. E beh, giustamente, guarda, no, ho detto, ritornando ai vecchi tempi, io merda. Le cose no, sono cambiate parecchio qua, hai capito? Sono cambiate, ormai la gente non c'ha più rispetto, no? Adesso, ragazzi. anziani adesso non c'hanno più rispetto delle persone anziane, la trattano come come fosse stato, come un apparente, capito? E non gli so niente, capito? La prendono a parolacce, la prendono dicono tanti Io volevo chiedere, no, hai ragione sicuramente, assolutamente, poca educazione. Tu PMR ne hai? Chi stai chiedendo a me? A fa? E te l'ho detto che ce l'ho. No, ma non mi ricordo se era il video o PMR, ma ce l'hai vicino? No, è il mio, ho fatto tutti e due. Fa PMR e le PD, tutti e due. Mettilo due secondi, dai, alzati dal letto. E per che cosa? Prova. Ma adesso sono più vicino al PMR, ce l'ho anch'io adesso, mentre invece c'avevo l'LPD solamente la volta scorsa, ti ricordi? Aspetta. Quello che stai usando dietro, quello lì. Ah, insomma, è sempre... si è andato a farti l'esame per la prostata? No, negativo. Me l'avevano fatto una volta, sì. Io stavo parlando proprio di quello, io l'ho fatto l'altro giorno, perché ho fatto l'esame dopo 50 anni che si fa. Cazzo, che esame. Mi hai sentito sverginato, di la verità. Froscio di me. Cazzo, dice, devo fare per via rettale, allucinato. Non me l'aspettavo, e non me vai tu la dottoressa. E ma te l'ha fatto lei o te l'ha fatto un uomo? Un uomo. Un uomo. Uomo con le dita grosse, cazzo. Si scelga il dito. E vabbè, sono cose che devono essere fatte, si fanno, non è che... Cioè, sono stato contento che non hanno trovato nulla. Mi ha detto che sono perfettamente sano e non c'ho niente. Che però lo devo ripetere ogni anno. Preparati, è una magra consolazione. Dito in culo e saltando. Ma poi dura talmente poco, non è che... Ah no, ma io ogni anno non ci vado più a far mettere il culo da lui. Guarda, se quello vuol dire stare tranquillo. Il tumore alla prostata è una cosa brutta. Non so. È stato operato mio cognato da tumore alla prostata. Lo so, è una cosa un po', diciamo, brutta, sì. Se non riesco per tempo è brutta. Brutta perché poi ti devono fare una cosa talmente invasiva che alla fine perdi qualsiasi tipo di funzionalità. In questi casi diventi impotente, così. Dimmi addosso, deve del panolone. No, ma vedi. A seconda di quanto è invasiva, di quanto è andato in fondo, sì. Comunque ci sono persone che assolutamente non gli viene questo, perché per dire, mio suocero che ha 82 anni è andato a fare una visita, la dottoressa ha detto soffrirà sicuramente di prostata, dice no assolutamente no, io non soffro di prostata, ho fatto gli esami tante volte, non ho mai sofferto e mai a me mi sentirà tutta come quelli che hanno la prostata. Ma mio padre soffriva di prostata. Allora devi controllare un po' di vita, soprattutto tu che lavoro che fai. Che bella chiesa, stavo a casa, ho detto sì, io guido. E mi ha detto, vabbè, dai, facciamo l'esame. Ha detto, no, non assolutamente niente. Dice, per il momento lei è tranquillissimo. Ma no, l'ho fatto solo per... Me l'ha chiesto se avevo pressione quando urinavo o se magari scendeva così. No, no, non è nessun problema di quel genere, l'ho fatto solo per prevenzione. Era l'urologo? È uno dell'INAM, non lo ricordo come si chiamava. Ma non so se hai mai visto il sito, qualcosa è stato animato dei grissi, ti hai presente? Si ritrova uno dietro in cui si sente violato, iniziamo a mettere a piangere e a correre dalla moglie. Ma mi stava dicendo Sandro ieri che stava parlando di queste cose, ci ho fatto per questo il discorso. Sandro, con il prodotto si è andato a fare un esame particolare e anche a lui gli hanno dato una cannetta, diciamo. E dice che gli hanno messo dell'aria all'interno e il tipo dice, il dottore dice, ma questo camice di tutto quanto di cosa, di cerata, e in più c'aveva una di quelle maschere tipo quelle che si usano per dice scugliatori. Cosa? Tipo colonoscopia gli hanno fatto? Sì, la colonoscopia. Ebbene, cioè praticamente c'è una telecamerina con una sonda che ti controlla tutto l'intestino. Ma adesso tu immagini che ci sono alcuni ospedali del continente dove si fanno i chiudi, dove c'è una telecamera telecamera all'interno, e dopodiché alla fine di questa, tipo della giornata delle 24 ore, delle 48 ore, quando tu l'hai messo sulle 3D, 3 dimensioni, sul computer. Ma la devi cercare in mezzo alle fiche, questa cosa. Sicilia, che è una gran cosa, che non è che è così piccola, però si mettono lì dei ospiti alla fine della fine, sono dei furganti, per cui alla fine si sono ancora più dovuto, alla fine si la piazzano fra le stesse, e poi la polizia non gli danno una fiancola e te la fanno ingoiare a un altro. Ma sì. No, la tattica di protezione che viene sostituita, che piace la protezione della sinistra. Cosa credi, cazzo? Per lì, siamo già fatti gli esercizi utilizzano le cose pubbliche, non l'hanno utilizzati per altri, o come arrivi tu cambiano tutti i sensi? Sono sterilizzati, i bisturi sono di quelli usa e getta, non sono, i bisturi che usano per aprire sono usa e getta. Tu vai dallo storico, sono la cosa a parte le palette, però quelli che servono di abbassare in cuore tutte le cose, per aprire la bocca o per le narici, quelle cose che poi le vogliono mantenere in autoclave, no? Ma sono sterilizzati, quelli, sono tutti i ferri che vengono sterilizzati ad alte temperature, come dovrebbero essere sterilizzati gli aghi quando fanno i tatuaggi. Sei giusto, adesso sterilizzano per comunque solo se funziona l'autoclave, la sterilizzatrice. Ma ad alte temperature funziona, come funziona? Cioè, la temperatura non si gira. Beh, è una questione della pressione, no? Soltanto che l'acqua bolle a 100 gradi centigradi, bolle alla pressione atmosferica, che ci troviamo adesso. Se tu aumenti la pressione atmosferica, bolle a 110, 120, arriva a 130. Solo allora bolle, e ti atterrai un po' di inferiore anche per 10 di caloria, sono ai 140, cosa che non puoi ottenere con l'acqua, capito, diversamente, perché a 100 gradi bolle, e quindi dopo li arrivano massimo a 100 gradi, alla pressione normale, quindi chiudere questo sistema. Metto la pressione che fanno arrivare a 140 gradi centigradi e con quella temperatura distruggi anche le tumore bambine. Vabbè, anche i dentisti, ma io vedo per il dentista quando porta Marco, apre proprio, sono sigillati tutti gli attrezzi, ce li ha tutti sigillati, li apre a uno dai sigilli. Allora, se ne puoi, prima di andare in nella sterilizzatrice che si chiama autoclave, sono questi cartucci verdi, sono sempre stati di plastica, sono verdi che hanno il fondo, il retrofondo bianco, una volta che vengono sterilizzati, che escono dalla cosa come i vapori che hanno bagnati, allora le mettono delle stufette, le asciugano, e dopodiché questi sembrano proprio sigillati nuovi, capito? Capaga, e infatti sembrano, loro hanno proprio la sterilizzatrice per sterilizzarli, dai. Ma Giuseppe che fine ha fatto? Giuseppe sembra un mito. L'autoclave, cosa sterilizzatrice? Autoclave. Sterilizzatrice e autoclave. Autoclave e sterilizzatrice, che poi funziona la qua. Perché il mezzo più sicuro e più economico per sterilizzare. Cioè, quando mi sono fatto il tatuaggio, lo stesso ferri stavano sterilizzando. Quando sono entrato dentro, loro c'erano i ferri sterilizzando, mi hanno fatto il disegno e poi mi hanno fatto... Che tatuaggio hai? Ho un delfino che sta giocando con una palla, che sta uscendo dall'acqua e giocando con una palla. Allora, dove l'hai fatto? Cosa devo fare anch'io proprio? Nel braccio, non è eccessivamente grande, ma cioè io ce l'ho da tanto, ce l'ho molti anni già. Non è cattivo dove? Dove l'ha fatto il mio? Sta col dottore, l'ho fatto da Manora, è famosa col dottore per i tatuaggi. Ha lavorato da tattoo per un bel po' di tempo e poi si è messo lo studio col dottore, da sola, poi adesso ne ha aperto un altro, che esattamente non so dove sia, ma so che è vicino alla gelateria del Capriccio. Quanto ti ha preso allora? 80. Euro o lira? 80 euro era mia. 80 euro, sì. C'era l'euro già. Allora, è già trattato bene, sono più le emissioni, però il prezzo è più alto. Ma è colorato o bianco e nero? Colori. L'ha già trattato benissimo. La palla che era rossa e gialla, c'aveva gli spicchi, c'era presente. Gli spicchi interi ce l'aveva rossi e gialli, poi il giallo non ha attecchito e me l'ha fatto verde. E il delfino aveva la pancia bianca e i contorni, vabbè, del tatuaggio normale, poi c'erano gli schizzi dell'acqua, che usciva da, c'è lui che esce dall'acqua con gli schizzi. Aveva ripreso il disegno del delfino che c'è lì a Porto Torre sulla costa. Se l'è presente con la statua che c'è sul mare, sulla roccia? No, no, l'ho fatto io il disegno, l'ho portato io. Non sai che quel delfino l'avevano messo senza dire chi fosse stato? Sì, su tutta la storia, poi l'avevano anche rubato, lo sai. Questo non me lo ricordo, ricordo solamente che si stava prendendo i medici, ma che non l'aveva fatto e allora era saltato fuori il vero creatore. E comunque, piazzato di notte, come cazzo ha fatto questo qua? No, è abbastanza semplice, nel senso che mi ha dato lì, ha fatto un buco, ha trapanato nella roccia e dopodiché sicuramente la coda del delfino finiva con una punta di ancoraggio, capito, quella specie, che faceva parte della struttura. Quindi l'ha affogato in qualche cosa di resina, una resina bicomponente e lì muore una volta che l'hai finito. Ma con te fa un casino devi fare, quando mai lì ci sono abitazioni e cose, si sente là. Io lo so perché... Cos'è questo rumore? Scusa. Io lo so perché lì fuoriescono delle persone, c'è cioè dei clienti, ci sono abitazioni di fronte, quando me l'hanno sentito trappando, anche chi si è andato con un trappa alla batteria, ma loro lo zocco, intende. Infatti, se vuoi fare una cosa di nascosto, lo sai cosa la devi fare? In pieno giorno. In pieno giorno magari con una tuta da lavoratore, non si caga nessuno perché pensano che sia autorizzato, magari oggi fai il cupo e domani metti il delfino, capito? E se non passano i vigili, ma è più bella faccia del buco, la vita. La sfiga non è mai troppa. E vabbè, comunque non è da lì che l'ho preso. No, il delfino l'ho visto su un giornalino, la palla l'ha aggiunta. No, erano i colori che a me piaceva. Lui rispecchia la mia personalità, giocherellone, bravo, come il delfino, ecco, quello lì è la mia personalità. Che avevi dei dubbi? No, ma io lascio al posto di, o agli altri, il giudizio di parola. Ma io non stanno parlando, io sto, cioè, mi rispecchio come mi sento, capito? Poi gli altri mi possono vedere diversamente, però io in quel momento lì sentivo di fare quello perché rispecchiava la mia personalità. Io mi conosco come sono. Però se noi sicuramente poi aspetta come ci vedono già, ci sentiamo di più. Però diciamo che abbiamo già sei così, dai. Gappa, gappa. Grazie, Lode, perché poi ti passi su. Non è cattivo, però diciamo che... Beh, certamente che sì. Poi ci ho fatto commuovere una commessa, lo sai? Ho fatto commuovere una commessa. Commuovere. Commuovere. Esatto. No. Ti ho raccontato il sogno che ho fatto. E lui ha detto, mi sto commuovendo anche se mi sa piangere, che manca. Io mi sono sognato che lì, siccome è stata l'ultima che mi ha stressato ieri, un altro mi ha detto delle belle cose che ti avevo detto, ti ricordi che te l'ho detto, che mi ha detto che sono l'unico che fa il lavoro come si deve, che me lo voleva dire da tanto tempo, però che non aveva il coraggio, poi ieri me l'ha detto. Però me ne ho sognato un'altra che mi ha chiesto della roba, gliel'ho portata all'ultimo momento, quindi ho collegato le due cose e mi sono sognato questa commessa che mi diceva queste cose, che poi in effetti non era lì, ma era l'altra. E glielo stavo raccontando, cazzo se devi fare dei ridagli, mentre mi sto commuovendo anche adesso, però io lo penso davvero. Ma guarda, che onore il fatto che comunque conoscere significa conoscere anche i propri limiti e non aver paura dei propri sentimenti, di cosa che non tutti non hanno capito, molti hanno paura che possa essere in qualche modo cambiato per un segno di debolezza, invece non è così. No, assolutamente. Bisogna essere se stessi, poi uno è com'è, però io sono sempre stato me stesso, se una cosa penso di dire di no, dico di no, se penso di dire di sì, dico di sì. Anche nel mio nazionale, per dire, da quando è nata mia figlia sono diventato molto più sensibile, anche quando vedo i film e cose mi commuovo. Se vedo Maria di Filippi divento una fontana. Si chiama andropausa comunque. Ma infatti, sto scherzando. Andropausa per le donne. Segnate. Che te lo pigli di baruculo, perché è proprio perché alle donne che viene, a parte che l'andropausa poi un uomo, non è detto che c'è, perché un uomo fino a 80 anni può muovere il cibo, guardate quanto mi ricorda di quello, per lungo. Ne ho sotto. Sarà come il nome di un amico mio, una volta abbiamo perso entrambi in campagna, abbiamo trovato con la donna degli ulive facendo, la vita 80 è passata. Abbastanza semplice, perché un uomo anche di 80 anni, una ragazzina di 30, una ragazza di 30, 35 anni, io ce lo può fare tranquillamente. L'andropausa è molto difficile, raggiunga raga, ma le patate di calore mi stanno venendo. Devi tenere in condizionamento. Mi chiamano già nel caldo. Oggi c'era una bella giornata, poi è stata merda, non ho capito adesso come. Adesso c'è il sole. A proposito si è piovuto quella polvere del deserto. C'è stata la macchina sozza. Era brillante la macchina mia, è diventata come se fosse di un campagnolo, senza nulla altro delle campagnole, ma come se fosse la sua campagna. Sta facendo subito quelli di autolavaggi, di service, di supermercato. Non durano nulla, durano molto più da noi, prova e te ne accorgi, durano molto di più da noi. 250 centesimi non ti dura nulla, proprio niente, invece magari quando 250 centesimi ti dura molto di più. Io con un euro mi lavo la moto, lo sai. Non sapevo che fosse, no? Dove i granai sulla sinistra entrando a Porto Torre. Esatto. All'entrata di Porto Torre se c'è scritto granai, entri dentro e ci sono i lavaggi. Tu metti i soldi, non c'è bisogno né di gettone, di nulla, metti i soldi. C'è 50, 1 euro, 2 euro, quanto ti piace. E ti lavi i lavaggi. Ma oggi lo vediamo, mi sa che è venuta ora proprio perché scende il sole, che me ne vado in quella di ora a farmi in diretta, dai. Sentiamo stasera se coincide. Vediamo un po' dai. Stasera c'è una festa a Latte Dolce, però ho paura di scendere a Latte Dolce con la macchina. Perché non te ne lasciano. Cosa? Ho paura che non te ne lasciano di macchina. E te la tocca, ho capito, te la sfascia, fanno. Dipende sempre, non è detto, però a un amico gli avevano rotto il vetro, rubato il giubbotto da dentro. Ma che sto facendo la prosa, la fai a piedi, sei a 200 metri se ti fili. La prosa ti avvira il rinnaggio. La prosa ce l'abbiamo tutti, è un po' come dire la cervicale ce l'abbiamo tutti. Poi è una cosa, il problema, se non c'è la prostata va di due cose che succedono. Non è il prolasso. Esatto. Comunque, perché non vai a piedi, c'è una bella giornata. Gira. Vediamo, dice chi dice la bomba di cantante. Ma se ci siamo lasciando, già ho visto che è arrivata. Non lo puoi cambiare. Va bene, poi ti fermerai. Siamo per la cerchiamo. Ciao, saluta la mia policina. Cos'è? Sì.